9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, ma prima domanda, ma qual è il leone che è scappato? È quel Silvio Berlusconi che ci dice nelle interviste che l'euro è un imbroglio e che la Germania ne deve uscire? Ma non è un leone, è il fantasma di un topolino, se permettete. Il Fiscal Compact lo ha firmato lui e adesso dice che è un imbroglio. Equitalia fa estorsioni, lui non avrebbe messo l'IMU, non avrebbe alzato le tasse. Non le hanno alzate quando erano al governo? Le palle, signori, lo spettacolo delle palle dopo 18 anni continua. Ma quale leone è scappato? Non è neanche un piccolo, piccolo roditore. Va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? E vogliamo parlare del signor Renato Farina, che solo dopo la condanna del direttore Sallusti dice l'ho scritto io già da radiato dell'Ordine. Non voglio esprimere opinioni, già ieri per quello che ho detto su la mia contrarietà all'arresto di Sallusti molti ascoltatori si sono scatenati. Continuo a ribadire che nel nostro codice l'arresto, quando la diffamazione diventa da reato delitto, è una fattispecie messa dai fascisti, e tutti quelli che fingono di inneggiare l'arresto dicendo è solo una sentenza che applica la legge, io non ce l'ho col magistrato, in realtà ragionano sul fatto che godono sul fatto che sia quel rompipalle, che anche a me sta un po' antipatico, di Sallusti, ad andare in carcere. Finché l'Italia ragiona meglio il nemico in carcere e poi la legge la cambiamo dopo per gli amici, non ci saremo intesi. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io. Allora, in tutto questo la situazione europea in realtà si sta molto molto ingarbugliando di nuovo, molto ingarbugliando di nuovo. Nel senso che i giornali tedeschi sono pieni di notizie, ricostruzioni intorno ai piani della Bundesbank ostili alla costruzione dell'unione bancaria. E Frankfurter Allgemeine e la Reuters hanno rilanciato molto su questo punto in questi ultimi due giorni. In Spagna da una parte avvampa la protesta per le nuove misure per 40 miliardi del budget 2013 che è stato predisposto dal governo di Mariano Rajoy, e dall'altra le condizioni alle quali la Spagna sta trattando gli aiuti ancora non sono chiare, e vi informo che costituiranno il benchmark, il punto di riferimento per l'eventualità che l'Italia a propria volta chieda aiuti. Avete letto sui quotidiani italiani ieri la contrarietà di Vittorio Grilli, però oggi trovate invece sui giornali per la prima volta una disponibilità esplicita espressa negli Stati Uniti da Mario Monti al fatto che l'Italia chieda aiuti prima delle elezioni per vincolarsi ulteriormente. Il Presidente del Consiglio ha detto non c'è niente di male nel chiederli e per la prima volta ha aperto all'ipotesi che lui resti in campo, governi, lo ammetta prima delle elezioni. Non si candida, ma dice che comunque lui è disponibilissimo. Il quadro è quello di aiuti. Stiamo attenti bisognerà che capiamo bene la Spagna come mette a punto la condizionalità dei suoi aiuti europei, perché su questo automaticamente i mercati, insospettiti dalla mancanza di certezza sulle nostre elezioni, applicheranno la clausola Italia, per così dire. Dopodiché Berlusconi vi fa chiaramente capire che lui intende defilarsi come se non ci fosse mai stato, spara a zero, dice che è un imbroglio, i tedeschi si levino di mezzo, facciano questo piccolo piacere. Quindi è evidente che l'ex capo dell'ex formazione politica di un'ex credibile Italia di centrodestra imbocca con tutte le scarpe la prospettiva di una campagna elettorale di palle demagogiche rispetto a quello che hanno fatto. Veniamo al tema del giorno, che è un altro classico tema che descrive la mancanza di credibilità italiana in sede internazionale, ed è la corruzione. La corruzione, questo fenomeno di cui si tratta di capire se è associato solo alla degenerazione dell'Italia per come è organizzata, o se è proprio, per così dire, costitutivo, una specie di carattere antropologico dell'organizzazione pubblica, politica e civile del nostro paese. Sullo sfondo c'è il braccio di ferro che da mesi va avanti in Parlamento intorno al disegno di legge anticorruzione che ci viene chiesto dall'Europa, su cui più volte il Quirinale ha invocato i partiti di andare avanti. Trovate ancora oggi, stamane, sui quotidiani delle approfondimenti sul fatto che il PDL continua a voler metterci dentro delle fattispecie limitative delle responsabilità di Berlusconi nel processo Ruby, e dall'altra invece si affaccia per la prima volta anche l'ipotesi di aggravamenti invece per la corruzione con utilizzo di denaro pubblico rivolto ad attività politica per fini personali, con arresto da 2 a 6 anni, quindi i casi, per così dire, Lusi e i casi di Fiorito nel Lazio. Ma comunque l'accordo ancora non c'è, perché il PDL continua a dire di no, e per intendersi questo è un fenomeno che, poiché investe la giustizia civile lenta, la mancanza di certezza sui contratti in Italia, il fatto che è una specie di pizzo permanente rispetto una molteplice lista di attività economica, questo significa una specie di tassa del 20%, per così dire, è stato calcolato in molti rapporti internazionali, che attraverso l'illegalità e i limiti del nostro sistema fa della corruzione una vera e propria zavorra del PIL. Allora, di questo tema si occupa oggi un convegno internazionale che si tiene a Courmayeur, e questo convegno internazionale dedicato proprio al tema della corruzione e del riciclaggio è un approfondimento sulla prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali, cioè per capire come il nostro ordinamento può e deve mettersi al passo con quelli internazionali, ed è organizzato dalla Fondazione CRT, cioè la Cassa di Risparmio di Torino. Abbiamo chiesto agli organizzatori di metterci a disposizione alcuni dei relatori che oggi interverranno su questo punto, per farci capire meglio, oltre al braccio di ferro sulle norme eccetera, che cosa davvero bisognerebbe fare a loro giudizio. Il convegno è organizzato anche dal Centro Nazionale della Prevenzione e Difesa Sociale di Milano e dalla Fondazione Courmayeur. Allora, abbiamo all'inizio, per i primi minuti, perché poi deve iniziare proprio il convegno, Alberto Alessandri, che insegna diritto penale alla Bocconi di Milano e che terrà proprio la relazione introduttiva tra poco sui reati di corruzione nell'ordinamento italiano e sulle linee generali di riforma. Quindi entriamo subito nell'argomento incandescente, per così dire. Intanto grazie e buongiorno al professor Alessandri. Buongiorno. Allora, tentiamo di spiegare a un pubblico non troppo esperto di fattispecie giuridiche, e che leggendo sui quotidiani di giorno in giorno gli aggiornamenti sul braccio di ferro in realtà poi smarrisce il punto di fondo. Il punto di fondo della legislazione italiana in materia di corruzione, più che di riciclaggio, parliamo di corruzione. Quale punti deboli ha e in che cosa è necessario che si adegui a ordinamenti più avanzati? Ma gli ordinamenti più avanzati e soprattutto le convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto e ha recentemente ratificato ma non attuato ancora, riguardano la punibilità di soggetti estranei, cioè privati, nei fatti di corruzione e concussione, riguardano l'assenza di un'ipotesi di traffico di influenze. Sostanzialmente sono questi i punti fondamentali. Quindi quelli che riguardano direttamente la politica? Sì, evidentemente sì. Ovviamente la responsabilità delle persone giuridiche che possono essere ritenute responsabili ai sensi della 231 italiana per questi fatti. A dir la verità, a me sembra che l'adeguamento a quello che ci chiedono gli altri ordinamenti sovranazionali sia questione abbastanza modesta, che non dovrebbe impegnare il Parlamento e le Camere per poco più di qualche mese, perché si tratta semplicemente di aggiustare e di integrare alcune norme che già esistono. È quindi molto singolare che si sia aperta, singolare ma comprensibilissimo, che si sia aperta una discussione, un braccio di ferro a cui lei accennava prima. Adesso era stato raggiunto un accordo in seconda lettura al Senato che aveva portato ad un disegno di legge che era stato da tutti condiviso. Mi sembra che ci siano ancora dei punti aperti, probabilmente dei punti aperti meritevoli di considerazione ci sono effettivamente, perché quello che è accaduto nella Regione Lazio potrebbe mettere in discussione alcune norme che non sono decisamente sufficienti per l'intervento, perché questi fondi diventano, nel momento in cui vengono affidati ai partiti, sostanzialmente di tipo privatistico. Io però non conosco gli atti ovviamente di Roma e quindi né si può pensare di fare una norma per un caso specifico. Certamente c'è il problema di un'utilizzazione di fondi che provengono dallo Stato ed entrano nella disponibilità dei singoli con una destinazione e che vengono invece intascati per finalità proprie. Ecco, questo sicuramente sì. Problema che normalmente la magistratura ha risolto finora con le ipotesi di associazione a delinquere, a dir la verità. Uno dei punti sui quali il disegno di legge si è arenato riguarda quello della concussione, perché non a caso, se ho capito bene tra le righe quello che lei diceva, dice per certi versi in realtà sono misure sulle quali non sarebbe legittimo attendersi che poche settimane, poi in realtà è del tutto chiaro perché non passano. Lei giustamente ha fatto solo un riferimento. Allora, in questo riferimento io appunto, per così dire, ci metto con una puntina questa domanda: come mai, da quello che ha capito lei, proprio su questa, sulle nuove fattispecie della concussione ci si è arenati? Sulla concussione ci si è arenati perché la concussione attuale, cioè l'articolo 317, prevede le due figure, le due condotte della costrizione e dell'induzione. Ora, lasciando perdere i problemi che questi due termini evocano, evidentemente l'induzione è un'ipotesi che si riferisce ad alcuni processi, o per meglio dire procedimenti, che sono ancora in corso e che riguardano personaggi politici appartenenti all'area della destra o del centrodestra, in particolare l'ex Presidente del Consiglio. Quindi c'era il tentativo di annacquare queste ipotesi di induzione o attaccandoci un'induzione a dare promettere indebitamente utilità patrimoniali che avrebbe comportato la non punibilità dell'ex presidente per il caso Ruby, oppure di espungere addirittura l'induzione. Il disegno di legge sceglie una via mediana, nel senso che lascia la concussione tradizionale, diciamo così, solo all'ipotesi di costrizione, aprendo un delicato problema di rapporti con la fattispecie di estorsione, ma questo per carità si vedrà poi, e costruendo una nuova figura di induzione ad una dazione indebita. È evidentemente un tentativo di raggiungere un compromesso, non so se questo compromesso sarà ritenuto sufficiente da coloro che premono perché il pacchetto cosiddetto anticorruzione esca, ma esca con delle norme anche a favore di taluni personaggi in taluni processi. Senta, nelle graduatorie internazionali, diciamo, ci sono diverse metodologie, diversi criteri che vengono comparati, sì. C'è quello della Banca Mondiale che fa una specie di misura comparata sul controllo della corruzione nel mondo, c'è Transparency International che fa le graduatorie anche sulla percezione della corruzione. Su qualunque di queste graduatorie l'Italia è in fondo a tutti i paesi europei, cioè quasi di solito poco prima della Grecia o penultima con la Grecia in fondo. Allora, quello che le chiedo è quanto di tutto questo dipende dalle norme penali, quanto di tutto questo dipende da ciò che c'è scritto nel codice da una parte e dall'altro da come poi è problematico invece tradurre quello che c'è nel codice nella realtà quotidiana e con tempi efficaci, perché poi si possa parlare anche di un timore della sanzione, oppure quanto invece fa parte, secondo lei, dopo tanti anni di studio della materia, di una specie di carattere antropologico, come si può dire? La sua domanda è forse la più importante di tutte quelle di cui abbiamo parlato fin qui, perché io credo che nessuna modifica al codice penale potrà costituire un vero argine per costituire una svolta su questo terreno, cioè un'anticorruzione. Si può molto discutere su tutti gli indici che sono usati dalla Banca Mondiale, da Transparency International, da altri enti, da ricercatori specifici. Certamente è un fatto, credo, indiscutibile anche per l'esperienza di tutti, che la corruzione pervada nell'ambito di una sostanziale disistima della forza vincolante delle leggi e quindi di una in osservanza diffusa delle leggi in tutto il nostro paese. Ora, questo richiede un'azione combinata rispetto al quale il diritto penale arriva buon ultimo e necessariamente buon ultimo, perché interviene su casi singoli, su episodi circoscritti, mentre la corruzione ormai tutti riconosciamo che è una corruzione diffusa, sistemica addirittura, secondo alcuni studiosi, ai confini e con legami con la criminalità organizzata. Quindi ben altri sono gli interventi di tipo amministrativo, di tipo civilistico che si possono mettere in campo. Io penso anche all'intervento di entità intermedie, gli ordini professionali per esempio, che finora non hanno fatto assolutamente nulla, mi pare, da nessuna parte nei confronti di loro esponenti che abbiano ricevuto condanne per corruzione, eccetera. Parlo come avvocato e ritengo che gli ordini degli avvocati hanno fatto poco e nulla nei confronti di un risanamento di questo settore. Quindi credo che sia un impegno a tutto campo che riguardi risorse rispetto alle quali, ripeto, il diritto penale è una delle risorse, ma certamente non la principale e non la determinante. Ha un valore sicuramente forte di richiamo, di simbolo, ma tutto poi finisce qui. Ecco, io sono molto d'accordo personalmente e per quello che può valere con questa riflessione che ci ha consegnato ora alla fine del tempo che ci poteva dedicare il professor Alberto Alessandri. Credo che in Italia sia molto un retaggio, voglio dire, di come è finita la Prima Repubblica e di come sta nel fango travolgendosi, autotravolgendosi la Seconda, un retaggio cioè dell'importanza che le vicende giudiziarie hanno avuto sia nel primo che nel secondo tracollo della Repubblica. Noi ci portiamo come retaggio di questa cosa l'attribuire a le norme penali e all'effetto di scoraggiamento da comportamenti non in linea con le norme dell'etica pubblica e individuale della legge penale, attribuiamo una specie di importanza salvifica a queste cose. Mentre io sono molto d'accordo, vi invito a riflettere, cari ascoltatori, su quello che ci ha detto il professor Alessandri. La realtà, se uno la guarda con un po' di distacco e guardando alle responsabilità diffuse, collettive prima che individuali, dove per collettive contano moltissimo i corpi intermedi della società. Il professor Alessandro ha citato per esempio gli ordini professionali. Ricordate Quante volte siamo tornati in questi anni esattamente sul punto che lui adesso evocava, chiedendoci come mai, per esempio, ci sia noto che c'è un solo caso dell'ordine degli ingegneri che dal basso in Sicilia ha visto delle personalità impegnate nella vita associativa tentare di fare pulizia su questo, e ricordate che noi ospitammo chi poi si è trovato comminato da sanzioni disciplinari all'interno del suo ordine professionale per averci provato, e quante volte abbiamo riflettuto sul fatto che per i medici, per gli avvocati eccetera, si aspetta una condanna passata in giudicato e quando e se si interviene dopo, e tutte le volte ci siamo detti come può avvenire una violazione delle regole di correttezza nel campo delle tangenti, della corruzione, della concussione, nel campo anche della criminalità organizzata, ovviamente, che ha bisogno di queste professionalità coadiuvanti per mettere in piedi i suoi affari, che sono quelli del riciclaggio, che sono quelli del reinvestimento nel mercato per prendere imprese decotte e così via. Tante volte ce lo siamo chiesto. Io ringrazio il professor Alessandri per ricordare a tutti voi che al di là del braccio di ferro in cui sono evidenti le responsabilità del centrodestra, come sempre, di dover parare il sedere al signor Berlusconi, al di là di quello il problema si chiama Italia. Italia, perché i corpi intermedi di cui vi ha parlato sono la vita ordinaria di un paese che dovrebbe avere lì gli anticorpi, e invece è permeato della stessa logica connivente. Questa è purtroppo, secondo me, l'osservazione più bruciante da fare, rivolgendo noi stessi allo specchio, non solo prendendosela con Berlusconi e i suoi servi eletti, nominati anzi in Parlamento. Oggi mi ho dimenticato di fare gli auguri a chi si chiama Venceslao, è un nome molto slavo, magari qualche figlio di nostalgico comunista sovietico che usava i nomi russi per contrassegnare il fatto di essere pronti all'ora X, quando sarebbe venuto il sole dell'avvenire sui cingoli magari di una divisione corazzata della guardia sovietica. Però in Italia a volte si davano i nomi anche così. Io nella mia prima vita, quella di militante di un filone politico-culturale, quello repubblicano, in Romagna e in Toscana vicino a Carrara era pieno di nomi che appartenevano alla tradizione anarchica. Cioè avevamo tanti Nullo, per esempio, che erano i segni evidenti di una tradizione. E pensate, per esempio, a come si chiamava la moglie di Cuccia, le figlie di Beneduce, no? Idea socialista. Pensate che bella cosa chiamare una figlia idea socialista. Eppure c'era tanta gente che sceglieva questi nomi. Bah! Io spero presto di potervi annunciare di avere una figliuola che si chiama Elettra, sono per i nomi un po' greci, non riuscirei a vivere con la mente a posto nella mia vita se dovessi dare a mia figlia l'idea socialista come nome. Però Beneduce è uno di quelli che poi ha fatto la storia d'Italia, per così dire. Allora, noi stiamo parlando di questo convegno che mai avrebbe potuto scegliere una data più acconcia e consona e coerente al calendario pubblico nazionale, che si tiene a Courmayeur oggi e domani, il 28 e 29 settembre, un convegno organizzato dalla Fondazione CRT, dalla Fondazione Courmayeur e del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, che è relativo proprio al riciclaggio e corruzione, prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali. Abbiamo sentito prima il professor Alberto Alessandri della Bocconi, che tiene la relazione introduttiva, l'ha iniziata proprio da due minuti fa dopo averci lasciato, e andiamo avanti a chiedere opinioni, tenendo sempre a mente lo scontro che negli ultimi mesi c'è in Parlamento sul disegno di legge anticorruzione, per parare come sempre Berlusconi da alcuni provvedimenti. E mentre su questo tema l'Italia è in fondo a tutte le classifiche internazionali, e questo contribuisce potentemente ad allontanare investimenti diretti esteri, a farci apparire come un paese non degno della fiducia dei mercati, chiediamo altre opinioni ad altri relatori, e abbiamo con noi Michele Polo, che insegna alla Bocconi, anche lui insegna economia politica, e che terrà più tardi nella mattinata una relazione sul tema corruzione, crimine organizzato, riciclaggio, pericolose prossimità e labili confini. Buongiorno e grazie al professor Michele Polo. Buongiorno. Allora, quando parla di labili confini, intende che nella realtà della vita economica e pubblica italiana è tutto, per così dire, una metastasi ma di patologie attaccate, discendenti e conseguenti l'uno dall'altro, riciclaggio, corruzione e crimine organizzato. Il crimine organizzato, prima abbiamo visto col professor Alessandri, è diventato La contestazione delle reti associative da parte dei PM è diventata una maniera per poter, per così dire, identificare meglio nella fase delle indagini preliminari i fenomeni di corruzione. Ma lei parla di crimine organizzato, cioè parla di reti di crimine grandi e magari anche internazionale di crimine organizzato. Nella realtà italiana siamo esattamente a questo, cioè è una specie di transgenesi continua che si vede più o meno dovunque a tutti i livelli, o in quali livelli? Qual sarà il punto di fondo che illustrerà? Il punto di fondo riguarda il fatto, lo dicevate già nella prima parte di questa discussione, il punto di fondo è di cogliere gli elementi di una presenza oramai estremamente diffusa della corruzione, quindi non fermandosi a singoli episodi, ma cogliendo in che modo man mano questa si è estesa a un insieme di atti amministrativi, di decisioni politiche e di attività economiche intermediate dallo Stato, vastissima, da quelle che poi veicolano grandi cifre fino alla concessione di un permesso di soggiorno a un immigrato. Ecco, in questa diffusione così ampia, ormai il fenomeno non può essere colto solamente guardando la singola d'azione, c'è un corruttore, un passaggio di denaro e una decisione pubblica viene addomesticata. Oramai il sistema funziona con delle vere e proprie reti che collegano tutti questi episodi e che vedono al loro centro delle figure, quelle che io questa mattina chiamerò i facilitatori, che svolgono una funzione essenziale, hanno a disposizione, diciamo così, una rete di relazioni, una sorta di scuderia di potenziali corrotti che possono essere di volta in volta attivati quando questo o quell'affare si rende possibile, ne garantiscono la disponibilità e quindi l'affidabilità. Io posso prendere contatto e fare una proposta senza rischiare di essere denunciato da una persona per bene, garantiscono chi è dentro e chi è fuori, e quindi garantiscono sostanzialmente la disciplina nei vari accordi corrotti che vedono svilupparsi in questo allargamento dei confini della corruzione. Ora, mi faccia capire un secondo, professor Poli, questa figura del facilitatore è una figura che secondo lei nasce per approfittare degli interstizi tra le fattispecie penali, cioè nasce perché il corrotto e il corruttore di professione o di vocazione o per propensione o per convenienza identificano nella norma così com'è la possibilità di metterci un terzo specialista in questo tipo di intermediazione, il facilitatore, così i rischi sono suoi, o nasce invece perché lo abbiamo visto nei diversi procedimenti perseguiti dalla magistratura emergere come una caratteristica evolutiva, per così dire, del carattere fisico, personale della manifestazione di interessi in questo tipo di fenomeno della vita italiana? Cioè è un fenomeno che nasce dalle maglie aperte penali o nasce perché assistiamo, per così dire, in vitro al fatto che la cellula tumorale della corruzione diffusa nella società italiana va in quella specializzazione per i fatti suoi? Ma è stato sicuramente favorito da lacune nell'individuare questo particolare ruolo e fattispecie delle norme, ne parlava prima Alessandri come uno dei possibili contributi della riforma, però nasce in primo luogo proprio da esigenze che un economista legge in vitro come necessarie per poter sviluppare a pieno e diffondere tutte queste relazioni corrotte, perché proprio perché mette in relazione tanti episodi che altrimenti magari sarebbero potenzialmente diversi e separati l'uno dall'altro, consente la creazione di incentivi molto più forti al rispetto degli accordi corrotti, mette a disposizione un parco di potenziali soggetti disponibili a partecipare a questi atti corrotti che altrimenti dovrebbero essere ricostruiti di volta in volta per svolgere il singolo episodio corrotto. Cioè in realtà, professore, potremmo dire che i facilitatori da una parte abbattono per gli attori di questo tipo di rapporto, quello corruttivo, abbattono i costi costi di transazione, e dall'altra ne diminuiscono per alcuni di questi attori le esternalità negative, perché le accentra in sé. Insomma, voglio dire, è una specie di ottimizzatore del processo. Sì, esattamente. E secondo me sarebbe il caso che nelle normative questa specializzazione, per così dire, poiché, come capite, se siamo riusciti a spiegarvelo, il facilitatore da una parte organizza meglio il processo, lo estende, per così dire, ma dall'altra tende a diminuire l'esposizione penale di chi partecipa a questa roba. Quindi c'è bisogno di norme che identificano in questo facilitatore un nuovo soggetto che deve costituire l'interesse di questo tipo di indagini e di procedimenti. Sempre nell'arco della mattinata interviene anche la professoressa, anzi no, la dottoressa Francesca Recanatini. Francesca Recanatini lavora, è un economista, è senior economist, e lavora nel settore pubblico rivolto alla lotta alla riduzione della povertà e alla gestione dei processi economici, lo sviluppo a questo fine, alla Banca Mondiale. La Banca Mondiale, nei suoi rapporti, non solo nei suoi rapporti annuali, ma da sempre si occupa con molte pubblicazioni di approfondire il rapporto diretto che c'è tra i fenomeni di corruzione e il freno allo sviluppo. Questo è classicamente uno dei settori in cui l'economia dello sviluppo, le parti meno avanzate del mondo, ha concentrato molte risorse, molti progetti, e ha misurato nel tempo i risultati, vedendo come il passi avanti verso un ordinamento pubblico, un'interazione pubblica, regole del mercato meno gravata dalla corruzione, sia uno dei più potenti acceleratori, non il fondamentale o il decisivo, ma uno in realtà dei più decisivi acceleratori dei processi di sviluppo. E quindi c'è dietro tutto un bagaglio di dati accumulati dalla Banca Mondiale, verso il quale bisogna essere molto molto grati. Ecco, in questa veste Francesca Recanatini oggi parla con Mayer sul tema dei costi della corruzione per i cittadini e le imprese. Io, nel ringraziarla di essere qui tra noi, le chiedo, per quello che riguarda il nostro paese rispetto agli altri, le graduatorie vostre dicono che il nostro ha un prezzo terribilmente più elevato. Prima di tutto volevo ringraziarla per avermi dato l'opportunità di poter partecipare a questa conversazione, a questo dibattito su questo tema che è estremamente interessante e importante per il lavoro che facciamo. Come lei stava enfatizzando all'inizio, io lavoro alla Banca Mondiale, quindi ho una visione globale di queste problematiche e soprattutto una visione che è basata sulle esperienze che noi abbiamo nei paesi in via di sviluppo. I costi della corruzione, che è il tema che mi è molto caro, soprattutto perché ne vedo i costi dal punto di vista dello sviluppo e della crescita dei vari paesi, sono molto significativi sia per i cittadini che per le imprese, e sono significativi per qualunque paese, non solo per i paesi in via di sviluppo. Questo è il primo punto che mi faceva piacere condividere con lei, con i suoi ascoltatori. Sono dei costi significativi per un'economia, per i cittadini privati e per le imprese, in modo diverso. E sono dei costi che noi abbiamo imparato a stimare, a misurare e a cercare di comprendere come si possano ridurre. Qualche esempio di come si possono ridurre? Esempi di come si possono ridurre. In termini molto generali, torniamo a questi principi di base, che poi dobbiamo entrare nei meccanismi più specifici a seconda della tipologia della corruzione. La trasparenza. È importante che l'amministrazione pubblica sia trasparente nella gestione delle sue risorse umane, l'informazione, le risorse finanziarie, nelle decisioni che vengono prese, e che ci sia questa idea di accountability, questa parola inglese che significa rendimento dei conti, che significa c'è una responsabilità per la decisione e c'è chi è responsabile per questa decisione, e questa decisione viene presa in base a dei criteri chiari e ben definiti. È importante anche il ruolo dei cittadini e degli imprenditori. I cittadini devono sapere i loro diritti e devono partecipare in questo processo di monitoraggio di come funziona la pubblica amministrazione. Queste sono alcune degli elementi chiave che noi cerchiamo di promuovere nei vari paesi dove lavoriamo. Allora, riflettete, cari ascoltatori, sul fatto che l'autoressa Recanatini e il professor Michele Polo hanno aggiunto altre considerazioni di fondo. Mentre il professore Sandri all'inizio vi ha ricordato che il problema non è solo la politica è macroevidente come problema in Italia, ma c'è un problema relativo al comportamento e alle regole deontologiche, al comportamento vero rispetto a quello dichiarato dei corpi intermedi della società. Il professor Polo ha detto: attenzione che la corruzione, i fenomeni corruttivi si organizzano per così dire ottimizzando la possibilità di introitare più vantaggi per sé, diminuendo l'esposizione penale delle figure che fanno parte dei fenomeni corruttivi. Francesca Recanatini adesso vi dice: la cosa fondamentale riguarda nella pubblica amministrazione, per l'estensione pachidermica che ha l'intermediazione pubblica in Italia, per esempio assegnare obiettivi quantitativi ex ante su cui misurare ex post ciascun pezzo della pubblica amministrazione. Tanto per cominciare i dirigenti a livello apicale, ma poi riguarda le business unit, le unità organizzative della pubblica amministrazione, e riguarda anche il singolo dipendente. Una cultura di obiettivi quantitativi su cui misurare le responsabilità nel settore pubblico renderebbe non solo più perspicuo, più trasparente l'utilizzo dei denari, ma vincolerebbe a risultati il giudizio su chi ha la testa di quella macchina e su chi la compone. E poi vi ha aggiunto per esempio una considerazione su come si devono comportare i cittadini. Devono sapere meglio a cosa hanno diritto e cosa no. In Italia sono tutti rassegnati, quasi. Poi sì, ci incassiamo tutti quando arrivano le elezioni, ma siamo rassegnati di fronte agli episodi di vita quotidiana che tutti i giorni vi documentiamo. E ha parlato delle associazioni di impresa. Le associazioni di impresa faticano molto ad arrivare a comportamenti, diciamo così, pienamente legalitari. Vi ricordate quante volte da questi microfoni della radio di Confindustria vi abbiamo sottolineato in questi anni l'importanza di rompere davvero con la connivenza della mafia, delle imprese? E abbiamo parlato con Ivan Lobello e con Antonello Montanti di questa insensione che regione dopo regione assumevano gli statuti nuovi all'interno di Confindustria per cacciare le imprese conniventi. Ma per decenni l'atteggiamento era stato di connivenza. Ecco, tutti i pezzi su cui riflettere prima di pensare che sia solo la politica. La politica cambierà ancora meglio quando dal basso avremo cambiato i nostri comportamenti. Roberto da Bologna. Roberto, che pensi? Antonino, buongiorno, complimenti per la trasmissione, complimenti a lei per la dialettica e complimenti a Radio 24 perché si assicura tra le teste come lei, Cruciani e Barisoni che non hanno eguali. Io penso che ci sia molta confusione tra corruzione e ruberia, la prima cosa. Sono d'accordo con Poli, con quello che ha detto Poli, come mediatore, la figura del mediatore, mi viene in mente Moppe nel caso di Girolamo, è la prima cosa che mi è venuta in mente, però secondo me c'è molta confusione tra ruberia e corruzione, e la corruzione penso che sia schiava del sistema amministrativo e politico, perché la non liberalizzazione anche delle categorie o costruzione, prendiamo esempio la costruzione, le case, in comune devo dare, devo fare, devo andare a chiedere, devo passare, è una cosa che è incredibile. Quanto più è pervasivo il settore pervasivo, pubblico nella sua autorizzazione eccetera, tanto più moltiplica le occasioni. Esattamente, e la cosa che a me ha dato molto fastidio in questi giorni non è corruzione, questa è ruberia, è vedere che il nostro primo ministro non ha sollevato scudi contro la ruberia laziale, non ha scritto pagine, non ha... Diciamo che su questo Roberto Monti è sempre molto attento a non sembrare lancia in resta contro i partiti per evitare le loro poi repliche: ah, vuoi fare il demagogo alle nostre spalle. Isidoro dalla provincia di Brescia, che ne pensa Isidoro? Penso che quando Craxi e Andreotti hanno fatto le torte, in 15 giorni li ha messi in galera e ci siamo liberati di loro. Adesso sono tanti anni che va avanti questa seconda repubblica e era di dominio pubblico sostanzialmente che la corruzione era peggio di prima. Però adesso non riusciamo più neanche a metterli in galera. Allora io volevo dire due cose. Uno, lei sta facendo un partito e per me uno che vuole fare un partito oggi dovrebbe partire dal presupposto di fare un partito per rifondare, per fare una nuova costituente in Italia, perché tutto quello che c'è non può essere mantenuto. Due. Secondo, bisogna pensare di fare una class action di tutto il popolo lombardo, il popolo campano, il popolo laziale contro voi avete preso. Isidoro, sta finendo i secondi.